giorni come questi che ti vorrei a fianco per dirti quanto cazzo io manco alla mia anima, la tua solitudine, il tuo pensiero mi affligge. E alle volte quando sconfigge il mare sembra fuggire distante, fare quelle volte cado e mi lascio da solo sulla strada a dire parole che poi ritornano al cuore come un'emozione soffocata senza voce. E invece tutto quello che vorrei fare è restare a guardare per ora il mare con te, a sperare il giorno migliore e a dire il sapore della tua pelle che si confonde sulle mie labbra asciutte senza il tuo sapore, che in fondo il dolore ricorda soltanto un'emozione, ore di cielo passato senza sapore, senza quel sentimento che chissà dove rimane e distratto tutto il mondo corre via, lascia soltanto notti di periferia, notti di viaggiare da sola su questo mare, eterno movimento, io sento bisogno dirti che già da tempo io penso a quella volta che eravamo insieme, voglio purificare tutte le mie pene e dire che il male che ho provato rimane soltanto una sostanza, un mistero, un immaginato. In fondo quello che rimane adesso non è reale, è tutto quieto, tutto sembra normale, e passare ore leggere, raccontare i miei disagi del cuore, le mie ore passate soltanto a dire che volevo fare l'amore, e rimane soltanto nel cuore a scordare tutto quel dolore, tutte quelle ore passate senza che un suono ci capisse, senza che un suono ci parlasse.